E buonasera a tutti, a voi tutti, radioascoltatori di Radio Alma, la frequenza di Bruxelles 101.9. Sono le 21:03 minuti e inizia adesso la trasmissione I colori dell'anima, condotta questa sera da Rosanna, con un ospite in studio che vi presenterò fra pochissimo. Ma naturalmente vi ricordo prima di cominciare che I colori dell'anima è una trasmissione che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22, che in ogni programma quindi affrontiamo un argomento di tipo sociale, di tipo culturale e questa sera parleremo in modo particolare di un argomento di un'organizzazione non governativa che si chiama Action Aid, ma appunto vedremo di cosa si tratta. Io propongo comunque che naturalmente restiate all'ascolto di Radio Alma 101.9. Fra pochissimo andremo a interrogare la nostra ospite e sappiate comunque che resteremo in vostra compagnia fino alle 22 e quindi mi raccomando, restate sintonizzati con Radio Alma. E questo era Roberto Vecchioni con la canzone Chiamami ancora amore su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:08 minuti in questo 16 di maggio 2011. Allora, vado subito a presentare la mia ospite Paola Bon. Buonasera Paola. Buonasera. Allora, Paola è la persona che questa sera ci farà entrare nel mondo di Action Aid, che è un'organizzazione non governativa, come abbiamo anticipato prima, ma di cui magari molti di noi hanno sentito parlare, hanno visitato il sito web, però non conosciamo i dettagli. Quindi stasera cominceremo con lo scoprire che cos'è Action Aid. Allora, cominciamo. Facciamo una breve introduzione, prego Paola. Grazie, sì, innanzitutto buonasera a tutte e grazie a Rosanna per avermi dato la possibilità di parlare dell'organizzazione per cui lavoro. Brevemente, in termini tecnici, Action Aid si occupa di cooperazione allo sviluppo. In termini più semplici, si impegna nella lotta contro le cause della povertà e dell'esclusione sociale, con un approccio abbastanza, diciamo, diverso rispetto ad altre organizzazioni che si basa sui diritti umani e che quindi mette le persone al centro di tutte le sue attività. Le cause della povertà. Action Aid parte dal principio che le cause della povertà non sono naturali, ma sono dovute a delle relazioni di potere ineguali e ingiuste della nostra società e che quindi possono essere cambiate. E Action Aid lavora con le comunità nei paesi in via di sviluppo per diciamo, produrre questo cambio. Action Aid è un'organizzazione che nasce nel 1972 nel Regno Unito e che all'inizio ha incominciato a lavorare soprattutto sull'adozione a distanza in India e in Etiopia. E da lì le attività si sono moltiplicate, ingrandite, i fondi sono aumentati e da più di 40 anni Action Aid lavora con milioni di persone. Come continuare? Ci sono talmente tante cose da dire. Allora, intanto c'è una sede a Bruxelles. Sì. Ecco. Sì, forse posso, esatto, continuare dicendo che dal 2003 Action Aid si è internazionalizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che è diventata una federazione di organizzazioni che ha un segretariato internazionale che è basato in Sudafrica. L'ufficio di Bruxelles fa parte di questo segretariato internazionale e si occupa di mantenere le relazioni con le istituzioni europee. Quindi inizialmente esistevano delle sedi di Action Aid però nei vari paesi che quindi diciamo lavoravano un po' indipendentemente l'una dall'altra, adesso invece hanno formato una specie di quella che tu hai chiamato federazione. Esatto, dove mantengono una certa indipendenza nelle attività, ma con obiettivi e priorità comuni, e che quindi insomma sì, lavorano per raggiungere obiettivi comuni. Allora, ad ActionAid lavorano persone quindi che, diciamo, tra virgolette sono stipendiate, ma ci sono anche dei volontari probabilmente, almeno in alcuni paesi. Sì, ad ActionAid come persone stipendiate diciamo lavorano più o meno 2500 persone in 40 paesi, è un numero abbastanza considerevole, e una cosa di cui ActionAid va fiera soprattutto è che nei paesi diciamo in via di sviluppo sono impiegate persone diciamo locali del luogo, che è molto importante. Esatto, perché capiscono la realtà locale, parlano la lingua e quindi danno all'organizzazione una dimensione abbastanza diversa. Per quanto riguarda i sostenitori volontari di ActionAid, sono circa 500.000 nel mondo, ma diciamo che sono soprattutto i supporter che si attivano in Europa, nel Regno Unito, in Italia, in Grecia, in Svezia, e che diciamo supportano ActionAid a vari livelli, sia finanziari ma anche con attività di volontariato, di promozione, di campagna, eccetera. Allora, ActionAid, poi lo vedremo un pochino più in profondità, lavora anche su alcune aree, cioè non è che lavora su tutto, ma su alcune aree che considera prioritarie per, diciamo, aiutare lo sviluppo di queste regioni con difficoltà e quindi per aiutare le persone, come hai detto tu, che vivono in alcune aree particolarmente svantaggiate. Vogliamo dire grosso modo quali sono queste aree e poi magari approfondiremo qualcuna di loro? Esatto, sì. Diciamo come ho detto prima, ActionAid basa la sua azione sui diritti umani, quindi ovviamente ce ne sono tanti e nel momento in cui ha stabilito le sue priorità ha messo al centro delle sue attività il diritto all'educazione, il diritto al cibo, i diritti delle donne, che come vedremo sono spesso dimenticati. Il garantire la sicurezza in casi di conflitti ed emergenze per le persone che ne soffrono, e il diritto a una governance giusta, e aggiungiamo un settore che è molto importante, l'aiutare le persone che soffrono di HIV a vivere una vita degna e a lottare per i propri diritti. Benissimo, allora questa era solo una introduzione molto generale, quindi entreremo un pochino di più nel dettaglio di alcune attività e vedremo anche cosa fa Paola, la nostra ospite, quindi qual è il suo lavoro qui a Bruxelles, però lo faremo fra qualche minuto. Nel frattempo vi facciamo ascoltare un brano musicale, si tratta di un brano del Sudafrica, di un gruppo che si chiama la canzone si chiama Tula Mama e il gruppo si chiama Sibongile Kumalo, quindi è un gruppo locale che canta questa canzone, così che mi sembrava diciamo in tema all'argomento di cui stiamo parlando questa sera. Volevo anche ricordarvi che il nostro telefono, se voleste chiamarci, 02 345 26 56. Se volete invece visitarci, noi abbiamo un blog che è radioalma.blogspot.com, dove potrete trovare le nostre trasmissioni, la registrazione delle nostre trasmissioni, e che quindi vi invitiamo a visitare. In particolare in questo sito troverete le trasmissioni in italiano di Radio Alma. Quindi ci ritroviamo fra pochissimo, mi raccomando, restate sintonizzati su Radio Alma. Ed era Fabrizio De André, quindi diversamente da quanto vi avevo anticipato, abbiamo ascoltato la canzone sulla cattiva strada di Fabrizio De André nella trasmissione I colori dell'anima, che questa sera è condotta da Rosanna in compagnia di Paola Bon. La canzone quindi africana ve la faremo ascoltare nel prossimo stacco musicale. Allora, ActionAid, un'associazione non governativa che in realtà è una federazione di associazioni che si trovano praticamente in tutto il mondo, e in tutto il mondo vuol dire anche a Bruxelles. Sì, come dici bene, L'ufficio di Bruxelles, come ho detto prima, fa parte del segretariato internazionale di ActionAid e si occupa di, principalmente, diciamo, di mantenere le relazioni con le istituzioni europee e di vigilare, diciamo, che le politiche europee per quanto riguarda la cooperazione e lo sviluppo mettano al centro l'interesse dei più poveri. E magari poi posso fare qualche esempio e spiegarvi prima, diciamo, cosa faccio io. Io mi occupo di un progetto che si chiama Azione per la Salute Globale, o Action for Global Health in inglese, ed è un progetto che è nato nel 2006 per promuovere il diritto alla salute nei paesi in via di sviluppo attraverso l'azione congiunta di organizzazioni non governative in 5 paesi europei. Quindi il progetto è stato quello di istituire un network di organizzazioni che lavorano insieme per promuovere il diritto alla salute e quindi promuovere quelli che sono gli obiettivi del millennio per quanto riguarda la salute, quindi la maternità, cioè ridurre la maternità e la mortalità infantile, salvaguardare la salute delle donne che partoriscono, comunque la lotta all'HIV, la malaria e la tubercolosi. Questi sono un po' gli obiettivi del nostro progetto che vengono portati avanti da più persone che lavorano in differenti organizzazioni in questi cinque paesi europei, che sono l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia e la Germania, e con anche una sede ovviamente a Bruxelles per quanto riguarda gli affari europei. È un progetto che viene coordinato da ActionAid e io mi occupo della parte di comunicazione. Per quanto riguarda invece le attività dell'ufficio di Bruxelles, come ho detto, si occupano di mantenere le relazioni con le istituzioni europee, perché è importante, diciamo, che a parte quelle che sono le politiche relative allo sviluppo, ma tutte le politiche dell'Unione Europea non vadano in contrasto con le politiche di sviluppo. Mi riferisco per esempio alle politiche del commercio, se si pensano per esempio agli accordi della pesca che hanno influito molto sulle comunità locali in Senegal quando sono stati fatti, oppure il caso più recente della campagna che sta promuovendo ActionAid con i biocarburanti, dove il fatto che l'Unione Europea abbia messo un target per gli Stati membri di produrre, diciamo, il 10% del loro carburante attraverso energie rinnovabili ha fatto sì che ci sia stata un'esplosione di produzione di biocarburanti e questo ha influito sulle comunità dei paesi in via di sviluppo, perché le imprese europee hanno incominciato ad andare a produrre i biocarburanti usando la loro terra. Quindi questi sono alcuni dei temi che trattiamo nell'ufficio di Bruxelles. Ma il fatto quindi di essere a Bruxelles, Paola, è perché questo vi permette di essere più vicino alle istituzioni, quindi alla Commissione europea, al Parlamento europeo, ed è importante questo dialogo con le istituzioni? È assolutamente fondamentale, se si pensa in termini finanziari, l'Unione Europea è il più grande donante, non so se si dice così in italiano, il più grande donor, donatore esatto, al mondo, e quindi è importante che tutti questi aiuti finanziari vengano diretti dove ce n'è bisogno, e la relazione quotidiana con le istituzioni sì, è fondamentale. E poi, appunto, avendo dato uno sguardo un po' al sito di ActionAid, che magari tu vuoi ricordare qual è? Sì, è www.actionaid.org o.it per chi preferisce leggere il sito in italiano. Ecco, appunto, tra le varie attività ActionAid fa proprio pressione anche sui vari paesi membri e paesi in genere che si sono impegnati magari a fornire gli aiuti a questi paesi in difficoltà e che poi non l'hanno fatto. Quindi ActionAid fa un po', diciamo così, il cane da guardia, se posso sì, dire. Sì, insieme ad altre organizzazioni ovviamente ovviamente che lavorano a, diciamo a Bruxelles e in Europa in generale, ma ActionAid fa parte di una di un'altra diciamo federazione di NGO che si chiama Concord, e che lavorano particolarmente nel monitorare quelli che sono gli aiuti finanziari che gli stati membri danno allo sviluppo, e che ogni anno sono sempre di meno, vuoi perché la crisi finanziaria o altre ragioni, è uno dei primi settori in cui vengono fatti tagli. Certo. E l'Italia, devo dire, non è il primo paese di cui andare fieri in questo senso, e diciamo che tutti gli stati si sono impegnati a dare lo 0,7% del loro prodotto interno lordo. Con la deadline diciamo del 2015, per fare un esempio pratico, l'Inghilterra è allo 0,5% adesso, mentre l'Italia è allo 0,15%, quindi e ci sono stati tagli negli ultimi anni che sì, probabilmente non, non verranno recuperati. Quindi, ma, ecco, tu sai qual è il paese invece più generoso, quindi l'Inghilterra da questo punto di vista? No, di no, mi riferivo all'Inghilterra perché è un paese con cui diciamo lavoro, ma i paesi più avanti in questo senso sono i paesi scandinavi, come paesi la Svezia, ho capito. Sì. Che sono più sensibili, quindi sono più sensibili, o comunque vabbè, sono hanno anche una... più ricchi probabilmente. Esatto. Però non è soltanto questione di ricchezza, sì, perché sì, anche poi... una questione di decisioni di politiche. Certo, certo. Va bene, allora io proporrei ancora un brano musicale, e stavolta veramente vi faccio ascoltare il brano che vi avevo promesso prima, cioè un brano di Sibongile Kumalo che si chiama Tu la mama. E ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati nella trasmissione I colori dell'anima, poiché resteremo con voi fino alle 22. Allora, ecco, questo era il brano che vi avevo promesso, il brano che si chiama Tu la mama, è un brano del Sudafrica che mi sembrava così in linea, diciamo, con l'argomento di questa sera, che è l'argomento dedicato ad ActionAid, e con noi c'è appunto in studio Paola, che ci sta parlando di questa associazione. Allora, dunque, prima di continuare con ActionAid, volevo però fare una piccola, diciamo, interruzione e darvi alcuni annunci di spettacoli che ci saranno nei prossimi giorni. In particolare, l'annuncio che sicuramente voglio darvi è quello che riguarda uno spettacolo teatrale che si chiama L'Incidente di Luigi Lunari. È uno spettacolo per la regia di Vito La Raspata e di Ortensia Semoli, che si terrà i prossimi 20 e 21 maggio 2011, quindi alle ore 20 presso il Teatro Beaux-Arts. Per prenotazioni 02 507 82 00, www.beauxarts.be per chi volesse appunto visitare il sito internet. Ripeto, 02 507 82 00, e si tratta quindi di uno spettacolo che si chiama L'Incidente di Luigi Lunari, con la regia di Vito La Raspata e Ortensia Semoli, quindi 20-21 maggio alle ore 20. Un'altra attività invece è di la presentazione di un libro che si chiama Temibili Insidie, un libro di Franco Bianchi, che verrà presentato domani 17 maggio 2011 alle ore 18:30 presso il ristorante Au Repos des Chasseurs. Quindi domani 17 maggio 2011 alle ore 18:30 presentazione del libro Temibili Insidie di Franco Bianchi. In realtà ci sono anche molte altre attività, comunque diciamo volevo perlomeno cominciare con il dirvi queste che appunto riguardano soprattutto attività che si terranno qui nella città di Bruxelles. Allora, io volevo brevemente parlare, ritornare un attimino con Paola, quindi a parlare di ActionAid, e ActionAid è presente in vari, praticamente in tutti i continenti, giusto? Giusto. Allora, abbiamo visto, l'hai già accennato, che è presente in Africa e in America, e qui Fra le tematiche affrontate da ActionAid ci sono soprattutto la prevenzione dell'HIV e AIDS, ma anche, diciamo, come combattere la fame, come aiutare le popolazioni al diritto al cibo e l'educazione di cui ci parlavi. Quindi in Africa, in vari paesi, e c'è appunto il segretariato di cui dicevi tu, che è a Johannesburg. Esatto. Sì, ci sono, di nuovo, sono molte le cose da dire. I temi che vengono trattati in Africa e in America Latina, America Latina e in Asia sono più o meno simili, nel senso che molte delle comunità con cui lavora ActionAid hanno dei problemi similari, che sono, come hai detto tu, il diritto al cibo, la lotta contro l'HIV. Ricordiamo che sono ancora 30 milioni le persone nel mondo che soffrono l'HIV-AIDS, e più di un miliardo di circa un miliardo di persone che appunto soffre la fame. E quindi ActionAid in questo senso lavora con le comunità, non solo diciamo provvedendo servizi e diciamo aiutando in quelli che sono i bisogni di prima necessità, ma lavora soprattutto con le comunità per diciamo crescere la consapevolezza delle persone su quelli che sono i propri diritti e su quello che possono fare e chiedere per uscire da questa situazione. Quello che voglio diciamo enfatizzare è appunto il fatto di lavorare con le persone e far capire che la situazione di povertà non è uno stato naturale, ma è una situazione che viene prodotta da determinati fattori e da cui è possibile uscirne. Quindi, per esempio, diciamo, sia per quanto riguarda il diritto al cibo, il diritto all'educazione, ActionAid lavora molto con le donne, perché in molte società, in molte comunità, sono le donne che diciamo vengono messe da parte o comunque sono quelle che soffrono le, diciamo, ingiustizie sociali. Quindi non so, per esempio ActionAid lavora per appunto rafforzare la capacità di reclamare i propri diritti e per aumentare la loro partecipazione nella vita politica locale, a ricoprire ruoli di leadership. Ovviamente dipende dal grado di awareness, diciamolo in inglese che è più facile, che queste donne acquisiscono attraverso dei processi di training, di lavori di gruppo, eccetera. Non so, posso portare l'esempio che ho avuto in India, quando ci sono stata l'anno scorso, e ho incontrato delle comunità, e comunque delle donne che erano affette da HIV, e in India, non appena diciamo la famiglia, le persone sanno che una persona affetta da HIV, vengono immediatamente, diciamo, allontanate e isolate. ActionAid lavora molto con queste persone che comunque appunto hanno diritto a una vita degna e lavora con queste persone perché prendano coscienza della loro situazione, ma nel senso positivo, nel senso di capire che appunto continuano ad avere i loro diritti e possono lavorare, possono andare a scuola per le ragazze o i ragazzini, e insomma supporta questo tipo di attività. Allora, ti ringrazio anche di questo esempio, che penso aiuta molto di più sicuramente a capire le attività che fai anche nel tuo quotidiano. Volevo anche far notare che spesso usi i termini in inglese, ma giustamente, perché nel tuo lavoro parli in inglese, vero? Sì, no, mi dispiace, infatti di ogni tanto se non trovo le parole, perché siamo talmente abituati a parlare in inglese, è la lingua quotidiana, che in italiano, sì, magari non trovo il termine, mi scuso. No, va benissimo. Allora, io proporrei un altro brano musicale. Nel frattempo speriamo di riuscire a contattare con una rappresentante italiana di ActionAid. Purtroppo abbiamo già provato, ma per problemi col nostro telefono non siamo riuscite. Comunque proveremo ancora a metterci in contatto con lei, altrimenti continueremo a chiacchierare con voi. Vi ricordo quindi che siete all'ascolto dei Colori dell'Anima, che resteremo con voi fino alle 22. E Paola, tu sai che noi dedichiamo ad ogni trasmissione un colore. Allora, a meno che tu non abbia un suggerimento, c'è un colore che ti viene in mente pensando ad ActionAid? Beh, il rosso. Ecco, il rosso. Allora, quindi dedicheremo questa ActionAid al colore rosso. Io vi mando un brano musicale, vi faccio ascoltare un brano musicale, si tratta di un brano di Laura Pausini e ci ritroviamo quindi fra pochi minuti, mi raccomando, restate con noi. Allora, e questa era Laura Pausini, noi abbiamo al telefono Chiara Sempio. Ci senti, Chiara? Buonasera. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Buonasera, allora, volevo intanto ringraziarti per esserti per dedicarci qualche minuto questa sera. Io spero appunto che anche i radioascoltatori possano ascoltarti bene. Quindi questa sera parliamo di ActionAid e tu, Chiara, lavori proprio per ActionAid Italia. Dove lavori? Sì, ciao, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Allora, io lavoro in ActionAid Italia, appunto un'organizzazione non governativa che ha come obiettivo quello di sconfiggere la fame e la povertà e nello specifico lavoro nell'unità campagne e attivismo presso la sede di Milano. La nostra unità ha come obiettivo da un lato quello di prendere dei messaggi politici e trasformarli in campagne di sensibilizzazione e mobilitazione e dall'altro quello di coordinare i gruppi di volontari e di attivisti che si appunto attivano poi sul territorio italiano. Ecco, come sai qui in studio c'è anche Paola che è una tua collega di Bruxelles. Ciao. Allora, ciao Paola. Ciao. Dunque, ma Milano diciamo è una città probabilmente in generale abbastanza anche sensibile al volontariato, penso, non solo con ActionAid ma anche con altre attività, quindi immagino che sarete abbastanza occupati da questo punto di vista. Sì, assolutamente, Milano è una realtà decisamente ricca di organizzazioni, organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato in genere. Nello specifico noi abbiamo un gruppo di volontari che è attivo da circa una decina d'anni e organizza sul territorio appunto varie attività presso e degli eventi organizzati magari dallo stesso comune di Milano e poi noi come sede ci attiviamo proprio per organizzare degli eventi che possono colpire l'attenzione dei media locali e poi dei media nazionali. Ho capito, quindi operate soprattutto nella città di Milano, voglio dire, voi non siete le persone che andate nei paesi diciamo in difficoltà, il vostro lavoro è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, giusto? Sì, allora noi il nostro attivismo è un attivismo che si sviluppa su tutto il territorio italiano, abbiamo 23 gruppi di volontari sparsi su tutto il territorio, dal nord al sud dell'Italia, anche in Sicilia e in Sardegna. E non abbiamo però degli attivisti che vanno sul campo, proprio perché pensiamo che siano le persone nel sud del mondo che si possano invece attivare loro stesse e possano mobilitarsi per i propri diritti. Quindi operiamo in Italia tramite la raccolta fondi, il sostegno a distanza, però l'attivismo si sviluppa soprattutto sul territorio italiano. Sì, dunque tra l'altro ActionAid Italia è nato proprio per sostenere l'adozione a distanza, giusto? Sì, ActionAid Italia nasce 21 anni fa, ha festeggiato l'anno scorso i primi 20 anni, proprio come organizzazione per il sostegno a distanza. E gli stessi gruppi di volontari quando sono nati nel 2002, erano nati come gruppi di raccolta fondi essenzialmente. Poi nel corso del tempo ci si è resi conto che la loro forza poteva essere più una forza di mobilitazione, di attivismo in termini di campagne di sensibilizzazione. Quindi progressivamente si stanno spostando proprio sulle nostre campagne, nello specifico sulla campagna del momento che si chiama Operazione Fame. Ecco, Operazione Fame, ci vuoi dire magari qualche parola in più? Perché ho visto sul sito web che ci sono, non so, si parlava di caffè per esempio, di questa... Sì, esattamente. Prego. Esattamente, l'Operazione Fame in generale è una campagna di ActionAid sul diritto al cibo che ha proprio questo come obiettivo quello di sconfiggere la fame nel sud del mondo e anche nel nord del mondo. nasce dalla considerazione che le risorse mondiali sono sufficienti per sfamare tutti, e che invece la fame è causa di un sistema economico che privilegia i profitti rispetto ai diritti. Nello specifico abbiamo portato avanti un'azione sul caffè. Abbiamo scelto il prodotto del caffè perché in Italia ha una diffusione decisamente ampia e tutti lo conoscono. Certo, certo. E infatti abbiamo lavorato sul tema del caffè, focalizzandoci sul tema della tracciabilità, della trasparenza e dell'eticità lungo tutta la filiera del caffè. Benissimo. Abbiamo portato avanti la campagna su due filoni. Da un lato abbiamo chiesto a tutti i consumatori di caffè di firmare delle petizioni in cui chiedevano alle aziende che producono caffè, chiedevano rassicurazioni su come il caffè veniva prodotto e se veniva prodotto in maniera etica. E dall'altro lato i nostri gruppi locali hanno portato avanti un'azione di advocacy locali presso le amministrazioni comunali, chiedendo ai comuni di portare avanti una mozione per chiedere a loro volta alle aziende e per arrivare a una normativa, una legislazione che rendesse obbligatori dei codici che parlino appunto di eticità, tracciabilità e trasparenza lungo la filiera del caffè, codici che al momento esistono ma sono solamente volontari. Benissimo, allora questo tuo intervento è stato veramente appropriato, però prima di chiudere magari se puoi ricordare qualcuno dei vostri numeri, il vostro sito internet, se qualcuno è interessato a collaborare più attivamente con ActionAid, cosa deve fare? Sì, allora a livello italiano il sito è www.actionaid.it. Nello specifico, se qualcuno desiderasse attivarsi, abbiamo questa mail a cui ci si può rivolgere, che è attivismo@actionaid.org. Benissimo. Allora, Chiara, ti ringraziamo moltissimo di questo intervento da Milano, per dare la tua testimonianza di persona che lavora nel campo. Grazie del tuo intervento e buona serata e buon lavoro. Grazie mille a tutti voi, buona serata a tutti. Allora, io proporrei a questo punto di ascoltare un altro brano musicale prima di fare le conclusioni di oggi, perché ci siamo siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione di questo lunedì e ci sentiamo quindi fra pochissimi minuti. E questo era Francesco Renga con la canzone Uomo senza età su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:55. Restano proprio 2-3 minuti e io pregherei Paola Bon, che è stata qui con me in studio, grazie Paola, di fare un po' un riassunto conclusivo di questa trasmissione di oggi, che è dedicata non solo al colore rosso ma anche ad ActionAid. Sì, grazie ancora una volta per avermi avuto qui questa sera e dell'opportunità di poter parlare di ActionAid. Volevo un attimino solo ricollegarmi a quello che diceva Chiara e enfatizzare il ruolo degli attivisti in ActionAid, che appunto lei ha parlato di attivisti italiani, ma c'è tutto un gruppo di attivisti che appunto si mobilitano in diverse occasioni, per esempio quando c'era, lo dico in gergo, il COP, la riunione sull'ambiente, e che quindi portano la loro energia, il loro entusiasmo e la loro voglia di, diciamo, lottare anche a grandi eventi, ed è questo un po' lo spirito di ActionAid, questo spirito di mobilitazione e di voler formare quello che oggi, non so se si può dire, un grande movimento sociale di gente che lotta per ridurre la povertà o ridurre o radicare la povertà nel mondo. Devo dire che ci lavoro da 2 anni e sono riuscita a trasmettermi in pieno questo entusiasmo e devo dire che ho incontrato le persone che in generale ci lavorano o che si attivano, sono speciali. Quindi, insomma, volevo un attimino riassumere dicendo che E quello che secondo me è importante ricordare di ActionAid è questo approccio che si basa sui diritti umani e quindi la volontà di dare alle persone la possibilità di vivere una vita degna, ma che non è, diciamo, solo il concetto di carità, beneficenza, ma è soprattutto legato al fatto che queste persone diventino consapevoli di quelli che sono i propri diritti e comincino a lottare per ottenerli. Sì, che poi mi sembra, diciamo, la cosa più importante, cioè che siano loro artefici del loro destino e non che siano passivi di eventuali nostre azioni. Esatto, questa è un po' la filosofia di ActionAid. Sì, che è molto interessante. Allora Paola, ti ringrazio di nuovo di essere stata qui, quindi di averci un po' così aperto le porte di ActionAid, e ricordiamo appunto che Paola lavora qui nella sede di Bruxelles di ActionAid e si occupa di comunicazione. Io vi ricordo quindi che avete ascoltato la trasmissione I colori dell'anima, che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi anche lunedì prossimo e tutti gli altri lunedì che seguiranno. Grazie ancora Paola. Grazie a voi. Buonasera a tutti i radioascoltatori e alla prossima, e ciao da me, Rosanna, a presto.